buonasera. Sì, buonasera. Beh, sembra la stessa chiamata, ma non c'è mai nessuno. Sì, si staranno riposando. Vabbè, sono già le 7.40. Ma anche io mi stavo riposando, mi adesso mi sono alzato, ho preso un caffè e sono venuto qui. Era addormentato, ero tutto assunto. E ieri mi hanno chiamato e insomma c'era un pochettino visto di balame, non so neanche più senza salutare. Io ho scappato perché mi stavo chiamando che era pronta la pizza. Meglio la pizza, Gianfra. Decisamente. Cosa ti volevo dire? Sono rimasto senza parole l'altra lì, me l'ho perduto in cammino. Quella è la vecchiaia, quella è la vecchiaia, carrogna è la vecchiaia. C'hai ragione, non posso dire neanche che tu ne sai qualcosa perché di età siamo lì, quindi. E infatti. Io come al solito io nel frattempo sto facendo anche altro, sto facendo dei controllini così per essere... ecco, è arrivata quello che aspettavo. Per essere, come si dice, vabbè, ci siamo capiti. Oh signore, mi ha acceso anche il computer, mi ha acceso. È fatto bene, io ce l'ho già acceso invece. Sì. E così Natale, come diceva era Bartali, se tutto sbagliato, se tutto da rifare. È tutto da rifare. Io sa che ho risolto la situazione del telefono, che era il sensore di prossimità che non funzionava. Ah, te l'hanno cambiato o regolato? Tutto io fatto da internet. Io ho fatto tutto io. E ho risolto. Adesso come vado a appoggiarlo all'orecchio, il telefono mi si spegne lo schermo. E così non va da nessuna parte lui. Cantando ci si riesce. Era l'unica. E se no lo so cosa facevo. Andavo e lo portavo dove l'ho comprato, tanto l'ho appena comprato. E gli dicevo di cambiarmelo, oppure di controllare loro. È troppo così, quindi stasera non c'è niente, sto anche controllando questa fatta. Ma Davì, ma la puoi fare qua una chiamata di prova, devo fare un esperimento. Per contare che ne so fino a 10, falla di 10 secondi. Ma qua? Sì, sì, sì, parla per 10 secondi. Va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mi stai sentendo? No, niente. Perfetto. Stavo controllando come eri nei canali adiacenti, ma ho appena spostato, sparisci, quindi sei proprio, come si dice, tranquillo, tranquillo. Ah, se avevo spurie. Ma sei proprio tranquillo. Sul canale adiacente no, quindi va bene. Sì, infatti, poi sto usando anche poca potenza, già lo sai, sto uscendo con 2,5 watt. Lei qua, ci sta, ce n'è avanti. Io invece stavo guardando, così a Parigi usavo una seconda guerra mondiale, che lavoravano sui 2 MHz, 3 MHz, quindi frequenze per noi abbastanza basse. E allora erano tutti a valvola, c'erano sempre potenze basse e basse, proprio perché erano anche alimentati con batterie, già lo sai, all'epoca le batterie non è che fossero così performanti, eppure si sentivano. E allora sì, adesso è che c'è casotto, ma meglio così, io sono con 2,5 watt adesso, ma sto cercando di fare una cosa e non ci riesco qua con questo telefono, quando non te le ricordi le cose. Beh. Allora, la prova l'ho fatta, Natalie, con la tua femmina a parte, c'è la coppia e non parte la mia. Perché bisogna renderla avviabile, ti ho detto. Già cerco, io non me lo ricordo adesso come ho fatto. Bisogna che ti faccia una pennina avviabile, ti inserisca tutti i dati, tutti quei dati che ci sono in quella pennina. E così diventa come la mia. Se vuoi te la lascio, dai. Comunque la tua parte è perfetta. Mentre quella di Stefano neanche, mi dà un errore, vabbè. Io l'avevo scritta a mano una addirittura, quella, i comandi, quella per Windows 7, quella per Windows 10 mi sembra che ci sia un programmino, adesso non me lo ricordo, è tanto tempo che l'ho fatta, capito? Vabbè, comunque usati la mia per il momento. Mia, va bene. Di Gianfranco lo dovrebbe sapere. Natali, no, ero un po' distratto. No, scusa, mi stanno chiamando al telefono. Voglio vedere un attimino. Vai. Ti ho mandato anche un messaggio su WhatsApp, non so se l'hai sentito, Natali. No, ero addormentato e non ci ho fatto caso. Adesso lo leggo. Ah, va bene, per quanto riguarda la pennina, la tua è a posto. Ce l'accoppio, ma l'accoppia bene, però non me la fa avviabile. No, è prima che la devi fare avviabile. Allora, adesso intanto c'ho il computer acceso. Adesso guardo cosa bisogna fare. Via. Allora, il computer mi sta inciudendo, boh, chissà cosa è successo. Ma addirittura non chiudendo, c'è. Boh, chissà cosa sta succedendo su... Adesso facciamo una bella pulizia e vediamo un po'. Prova. amici. E beh, poco vuoto. E beh, Luca. E beh. Come va Luca? Dimmi tutto. Tutto bene, tu? Beh, abbastanza, diciamo, là. Sto cercando di quelle moto elettriche, come ce l'ha coso, almeno viaggio, cazzo. Ma ce la faccio a comprarmi, cazzo, un coso. Poi quelle moto normali, patentino, eccetera, eccetera, assicurazione. Cazzo, vuoi vedere quanto quella, una moto elettrica, ve la bozza. Ah, la moto elettrica ci vuole patentino. No, ho detto, in pratica, con quello che spendo con la moto elettrica, si può comprare una moto normale, capito? Il discorso è quello. Tra patentino, assicurazione, casco, eccetera, eccetera, mi conviene più la moto elettrica, scusa. Beh, senza dubbio. E quindi sto cercando la moto elettrica. Mi sono venduto l'apparato, mi sono venduto il baracchino, quello grande. E quindi prendo la moto elettrica, perché sono stufo di rompermi le balle ogni volta andare a farmi la spesa e a mettermi la collo, capito? Qualche giorno mi sono fatto, quindi a un certo punto mi sono venduto tutto e se la biglia in culo. Mi è rimasto questo baracchino e tutto il resto. Vabbè, di lusso. Beh, cosa me ne fai la mia baracchina? Non c'è nessuno, a un certo punto, scusa. Allora, lo utilizzo per qualcosa di utile. Mi faccio una spesa, me la metto nelle cose, nello scooter elettrico, vabbè, chiamalo scooter elettrico, quello che vuoi. Comunque sia, ci stanno... c'è tutto. Ci posso mettere cosa? L'acqua, come si dice, la spesa, ce la metto dentro il cofre, ecco, quindi a un certo punto mi serve una cosa del genere, solo quella. Adesso ho preferato l'altro giorno, come si chiama, poi adesso vediamo, deciderò, faccio un po' di telefonate, capito? E quello che costa di me lo mi prendo e se la biglia in cuffia. Pompo, alla fine conviene l'elettrico, so che la batteria è un casino. Cazzo, si crema la batteria, lo so, anche prima o poi si spacca, ti guarda più la batteria che la moto. Vabbè, 60 e 60 cosa so, 60 volts, non è quello il problema, è la batteria. Che hai fatto ciucucciù, Marco Condo, eh? Lo vuoi schiatta? Parlate bene. Chi è? Parlate bene. Davvero? E ti fa schiattare. Noi parliamo sempre bene. Ciao Pupu, ciao Lu. Saluto neanche a te, comunque ben sentito. E dove sei qui? Non c'è un mercato, vado. A Padanieta, a Sassari. Sassari. Ah? A Sassari, c'è un mercato di Sassari, Civichi. Ah, ecco, mi senti anche lì? Io e mille. Che bello. Capito chi è tu, Pupu? Già ho capito di quello qua. L'unica cosa che mi è rimasta quel baracchino, guarda, a vendere, che ho comprato, gli ho messo il microfono amplificato, cazzo, il DM1000, l'avevo pagato 80 e passa euro, cazzo, da internet, ho preso la fregatura, cazzo, guarda, di lusso, cazzo, la prima volta. Il lockdown, una volta non lo faccio più io una cosa del genere, quindi roba da internet a fanculo. Fate bene, pericoloso internet. Se ho pagato 22 euro, cazzo di cosa, ho pagato, ma pare che ne costava 60, ho pagato 86, c'ho lo scontrino, amico. Hai capito? L'ha avuta in culo, l'ha avuta, quindi a un certo punto ho dovuto mettere il microfono io, parlo io, mi viene mille che potevo uscito bene l'apparato, era l'unico modo, o di medaglia oppure l'MB più 4, il discorso era quello. Di regalo mi sono fatto perché c'era la questione del prima del coso, ci voleva l'omologazione, poi l'omologazione è sparita dopo un mese, hai capito? Ma anche se era tutto il culo, cazzo dello Stato. Ma dov'è? Vabbè, adesso è diversa la cosa, ma comunque sia. però quella fredda, almeno vado a farmi la spesa tranquillo e sono tranquillo. Sono comode, poi sono a quattro ruote, così? No, oh, io piglio quella due ruote, lo scooter a due ruote, no, quello a quattro ruote. E non sono così belli, no? A mettermi cazzo la poltrona dietro, no, non sono di quelli, tranquillo. C'è un mio amico di... vabbè, non dico il paese. Lui non c'ha niente, ma la usa tranquillamente per spostarsi. Ci mette tutto dentro. La spesa, pezzi di cambio, tutto, che lui è un meccanico. Là. Cazzo di cena, a me mi serve solo per quello, non mi serve per altro. Meglio da Balacchino già è la verità. Molto meglio da Balacchino, a me non cazzo. Posso andare a farmi la spesa, a farmi il coso, mi porto la spesa a casa, ci metto la moto dentro in garage e sono tranquillo. Solo per quello mi serve. Molto... E a un certo punto cosa faccio? Sì, cioè sono a 300 euro, a 700 euro, non ti preoccupare proprio niente. Poi ci vuole patentina, e poi ci vuole cassa assicurazione, e poi ci vuole con l'altro. Mi sono fatto i conti a un certo punto, il comune con l'elettrica, che c'ha quelle moto lì se le tracca in culo, la verità, se le tracca veramente in culo. Sperando che dopo un po' magari non mettono tassi anche lì, perché vedono un po' come va il mercato e subito appena notano che un sacco di gente c'ha queste moto elettriche, allora ti mettono la tassa, sono maledetti, sono. Sì, tranquillo, non mettono tasse, tranquillo. Per cosa? Per 250 watt, è come andare da qui alla, per dire, a 30 km orari, quindi a un certo punto cosa devo mettere la tassa? A meno che non lo modifichi il motore, se modifichi il motore allora sì, da 250 passa a 500, a 500 a 200, non ci vuole molto, già lo sai anche tu, hanno fatto quelle macchine cazzo da poco, cioè hai visto quanto pompano, cazzo, fanno fino a 200 km, quindi a un certo punto non ci vuole molto, no? Cambia il motore. No, già è come il motore termico, li truccano, gli danno più potenza quei motori, truccano tutto, le carrozzine, truccano quei monopattini, truccano tutto, è la doppia velocità, infatti li vedi sfrecciare, sono allucinanti quei monopattini. I monopattini di oggi a me costano una pecchina di quello che è 2 euro su Amazon, quindi figurati tu, se tu ti prendi una di quelle cadi, ti ammazzi, a fare i tuoi solo, e sei ammazzato e allangati. Allora uno mi ha attraversato sulle strisce pedonali. Poi veloce, cioè lì non te l'aspetti, perché lì ti aspetti un pedone, il pedone non è che abbia una velocità elevata, questo invece era velocissimo, ho dovuto inchiodare, cazzo. Lo so, pompano un po' quel cavolo di coso, di motorini, cioè motorini, vabbè, io che ho un motorino per quelli che sono, ma comunque sia, funzionano bene per quello che hai capito. Solo che devi rimanere in piedi, il discorso è quello, perché se non paghi poco poco ti ammazzi tu da solo, hai capito, senza casco. Lì avrei messo la pettorina, quella come si chiama, alta visibilità obbligatoria, perché non li vedi arrivare, caspita. A volte sono tutti vestiti di nero, ti passano davanti, neanche te ne accorgi, rischi di vestirli. La pettorina obbligatoria, arancione o gialla. E poi che cosa? E il caschetto anche obbligatorio. Quello l'avevo messo solamente a quelli di Amazon, perché quei ragazzi di Amazon che fanno, come si chiama, si mettono in pratica. Dietro. Hai capito? A questo punto, una volta che c'hai dietro il sarcofago che ti fa pesantezza, quello che è, tac, la bella questione, mi sa se è quello, non ci vuole molto, no? Una busta, cosa ti posso dire, qualsiasi cosa, va in giro per dire, hai capito? Bastano solo per lavorare, guarda, per portare pizza e cose del genere. Io a posto di usare uno scooter ti metti il, come si chiama? Non mi ricordo cazzo il nome, ma comunque sia, mi hai capito, ti metti quello di dietro, porti le pizze, parcheggiali come sono fuori, poi prendi e porti le altre pizze. Solo così andrebbe bene con la Ceccio, non per altro. Comunque li ho visti su quei monopattini piccolini camminando in due, tutti sbilanciati, a rischio di cadere da un momento all'altro. Ho detto, mamma mia, se ti cadono da marciapiede in mezzo alla strada, guai. Lo so, non ti preoccupare, già l'ho visto. Comunque sia, io la penso così. Se vuoi un monopattino per portare in pizza e cose del genere, ti metti una sacca dietro, tipo globo, quello che è, e porti la roba e la metti in casa, basta, non fai altro, e poi prendi il tuo indietro, e sei tranquillo, tanto non costa niente, lì. Non ci metti tu, anzi, ci guadagna con quello che porta in pizza, ma non spende niente, perché in pratica, che prende l'affitto delle... quella roba lì, al limite piglia l'affitto delle, cioè posso dire, il pizzaiolo, quello che è, il ristorante, mi sento un po' di perde. Sì, molti, diciamo, i mezzi li danno, li procurano loro stessi, i ristoranti o le pizzerie. Qualcuno invece deve essere munito, dipende dalla pizzeria o dal ristorante. Però come dici tu, questa roba dietro si può sbilanciare, non lo so quanto possa essere sicuro questo zaino grande dietro le spalle. Non ti preoccupare, se vengono in due, figurati, io mi sono trovato giù due ragazzi, maschio e femmina, in giro, in via delle Lampe, figurati tu. Qui non ti fa niente, non ti preoccupare. Secondo me è una cosa logica. Per questi, cioè ragazzi rider, come si chiamano, no? Mi dai il monopattino, apportano la moto e siamo a posto. E sono più tranquillo, intanto non lo posso rubare, prima cosa. Portano le pizze, portano quello che devono portare, siamo a posto. E poi se non si finiscono, quanti posso dire, dalla piazzetta che c'è a Magistero, perché la piazzetta è lì. Non lo so, comunque stanno prendendo piede questi monopatti, ormai li trovi dappertutto. Alghero li trovi buttati da destra e a sinistra, perché sono quelli che prendono in affitto. Ci hanno sicuramente qualche carta magnetica, o col telefono. Tu inquadri il codice QR, ti scarica sicuramente il credito da questa tessera e tu prendi e parti. E lo lasci dove vuoi. C'hanno il GPS incorporato, poi l'azienda cosa fa? Sa dov'è, passa e li ritira. In base al GPS sanno in che zona l'hai abbandonato, capito? Secondo te sì, ma te succedo io. Tu vedrai il cazzo che più di uno le perderanno di quelli lì, te lo dico io. A un certo punto smonta i soldi della scheda per il fottuto la vita. Vedi che frega, non devi togliere il GPS, perché sicuramente ce l'hanno incorporato, non so dove sia, all'interno, c'è qualche cosa, qualche chip del GPS che segnala la posizione, no? Guarda che c'è su Amazon, 2 euro se ne vuoi, 1,99 euro adesso, lo sto guardando, se te lo vuoi prendere, chiedi quanto ne vuoi. No, io preferisco le quattro ruote, possibilmente quattro ruote motrici pure. Beh, io lo stesso, mi sono tirato un coso, la verità. Il motorino, mi figura tutto, perché è un casa mi di quella roba lì. Sono un po' che non vado, mi sembra in moto, non ricordo neanche quando è l'ultima volta. Ah, forse ho spostato quella di un mio Vicco che aveva avuto un incidente, quindi la circolazione l'aveva riparata a nuovo, quindi l'avevo portata in garage, da l'ultima volta che ho toccato una moto. Comunque io mi sono detto, quel monociclo, la vetta, arriva fra una settimana, a me lo esco in moto, cioè in moto, in motorino, mi faccio la spesa, faccio quello che devo fare, poi torno a casa e sono tranquillo. Poi di mezzo mi pago le ratte e vado in culo, a certo punto. Di certo non devo ammazzare cazzo con quella mordetta cazzo che stanno andando adesso, cazzo. Hai capito che quello si è fatto i soldi, cazzo, a certo punto. Per quello al limite posso fare la modifica, per dire, del monociclo, faccio altre ruote, faccio la modifica, dopodiché treno e le vendo, hai capito? Per fare la spesa. La gente a me lo esce, è stata tranquilla, senza patente, senza niente, tutti gli anziani, eccetera, eccetera, hai capito? Ci vuole molto, ci vuole esperienza, ci vuole. Intelligenza applicata, vabbè, quella che mi manca a me. Quindi, vedrai che tu tra poco spariranno tutti quei cosi, spariranno, te lo dico io. A un certo punto. Perché usciranno quei cose, i triciclo. Per fare la spesa, con un bel sacchetto dietro, un bel sacchetto davanti, quello che è, hai capito? Una bella partenza per scendere, per salire, eccetera, eccetera. Tu me la scena, lo dico io. No, ci sono già quelle macchinette piccole, batterie, tipo la Smart, no? Un po' più piccola, e che non hanno molta autonomia, che poi in città già basta, mi sembra che facciano 60 o 70 km fanno con una ricarica, e comunque ha voglia che giri in città. Quindi anche di più fanno, basta 800 watt per fare da qua ai punti 80 km orari, già lo sai anche tu. Poi se vuoi avere lo scooter come si deve, basta avere 1200 watt di potenza. Il discorso è questo, non ci vuole altro. Ma sono tutti elettrici, poi ci sono quelli tipo app e cose del genere, addirittura stanno facendo anche come si chiama, il sito della Piaggio, gli altri dove la Piaggio stanno facendo, tutti elettrici stanno facendo, capito? Adesso la Smart mi sembra che non la facciano più con motore elettrico, solo elettrica. Se ve l'ho chiesto l'altro giorno, è parte da, mi sembra, 30.000 euro, una Smart, ormai così, motore elettrico è meglio, ma molto, molto meglio, quindi a un certo punto il gas, la benzina, il gasolio, quello che è, sono i venti. Una volta che ti arrivi a casa, tu lo metti in garage, agganci da 220, lo lasci come fanno. Ci si è mai passato qualcosa là? Ma ti posso dire? All'Enel. Se tu vai all'Enel, ci sono tutte le macchine elettriche, ci sono, non c'è neanche una normale, tutte elettriche sono. Sta prendendo piede, ormai anche nel supermercato, nei parcheggi ci sono già, tipo la piazzetta se non sbaglio, c'è già la colonnina, addirittura non neanche si paga per caricare per adesso e poi diventerà pagamento. Beh, logico, ma secondo te la faccia una data, a meno che non fai un tanto di spesa, discorso è quello. Comunque adesso anche la corrente sta aumentando, hai visto, 30-40% in più, adesso vediamo questo aumento se lo fanno pagare a noi o se interviene il governo, speriamo bene, se no c'è il conto di bollette. No, tranquillo, allora si è fermato tutto, quindi devo aumentare la luce, non aumenta, non ti preoccupare, non sono così scemi. Non ti preoccupare, quindi siamo tranquilli, almeno per quello, quest'anno e poi magari il prossimo anno, dipende dal Covid, che sto scendo io. specie di prima, sto dicendo cazzo che la luce no, non si paga la luce, non si può più niente, lo dico io. Sta aumentando perché per l'Ener, per produrre energia usa il gas, capito? Il gas sta aumentando, di conseguenza aumentano le bollette. Poi purtroppo dovrebbero usare energie rinnovabili, tipo solare, fotovoltaico, roba così, o eolico, aumentare la produzione in quel verso lì, in quel senso lì, lasciar perdere gas o carbonio, olio combustibile, eccetera. Bisogna puntare, specialmente qua noi in Sardegna, che potremmo vivere di rendita, il sole ce l'abbiamo quasi tutto l'anno, il vento non ne parliamo, potremmo campare di rendita noi, invece siamo ancora così. E come fai a regolare la frequenza? Quale frequenza? La frequenza devi regolare, non ce la fai solo con le fonti rinnovabili. Ecco, adesso Fabrizio. Però potrebbero aumentarle queste quote, invece siamo messi male ancora. Non abbiamo la tecnologia per produrre troppa corrente in fonte in corrente di una corrente strana, quadra, è tutto diverso. Non riesce a fare regolazione, ci vogliono molti motori sincron. Toglietevelo dalla testa, dovete continuare ad andare con una grossa parte di centrali a rotazione. E poi ci lamentiamo per l'inquinamento. Ma bisogna puntare, piano piano rinnovare tutto. Insomma, ce l'hanno fatto in altri paesi, ce l'hanno di noi, potremmo farcela anche noi. Non esiste nessun paese che può produrre tutto, una parte come qua, noi siamo già all'avanguardia, non ti credere. Bisogna giocare sui tetti dei privati, bisogna fare isole produttive, bisogna fare tante cose si possono fare, ma non più di tanto. Una certa parte va sempre prodotta, per mille motivi, e lui sarebbe lunghissimo il discorso, però non è possibile fare tutto a fonte delle rinnovabili. Le fanno perché c'è il CP6 e conviene per il CP6, se no non le avrebbero fatte. E poi ci saranno ancora tanti interessi dietro, finché c'è questo cavolo di petrolio dietro, purtroppo continueremo a parlare qui di inquinamento e cose varie. Siamo quanti anni che stiamo cambiando macchine, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, euro 5, adesso non so quando siamo arrivati, 6, 7, eppure l'inquinamento ce l'abbiamo ancora, non capisco il perché. E stiamo producendo troppa energia e si spreca, e siccome noi siamo gli ultimi ora, adesso ci sono tutti gli altri paesi emergenti, è ovvio che non ce la facciamo più. Riprendi, Ali, mi ascolti bene dalle parti tue? Ho voglia, grazie a me, tu vedi il numero va. Franco sono. Sì, sto dicendo a cosa? Non mi viene in mente il nome adesso. Fabrizio. Sì, sono qua che vi sto ascoltando e sto facendo un lavoretto. Quindi sono tutti quanti in tagelato anch'io, non sono l'altro, in testa, non sono l'altro. Una cosa all'altra. Me la buschi non me la buschi. Me la buschi un coso. Non ti posso dire. Di quelli. Ecco, ma che c'era presente, sì. Quelli che pedali appena appena e poi stai andando. Se c'è qualcuno che non lo sta più usando, quello che è. Non so cosa dirti io di quella roba, Allora quindi sono fregato. Se credo che è quello, sono fregato. Vabbè, allora, non so. Nel caso riesco a buscare una cosa del genere, mi serve un apparato serio. Ma serio lì, sto dicendo. Hai capito? Non ho toccato con nessuno. Quindi né riparato né niente. Vabbè, io proseguo, sto facendo una cosa, adesso sono qua, ciao, sono qui in ascolto. Ok, vabbè, tu pensaci, che non c'è problema, nel caso... Sì, venuti prima, no? Purtroppo una cosa del genere, io voglio la parte che non sia toccata, questa cosa del genere. Come si deve? Se deve essere vergine, sai cosa deve essere vergine? Certo. Quindi, tutto lì. 10 minuti. In negozio mio, Antone, c'è qualcuno che voleva entrare, ho sentito una portante. Non ti preoccupare, c'è qualcuno che sta dando qualche apparecchio vecchio, non ti preoccupare. Qualcuno vuole entrare? Mi serve un controllo, grazie. Di chi è? Carlo, modulo da Sassari. Non lo so da Carlo, io non so perché ti sento, vorrei dire. Carlo chi? Ho rispolverato la radio e ho messo un'antenna nuova e quindi non sono nuovo operatore, ma ero da anni che non modulavo e quindi voglio sapere se sto uscendo bene. Ce l'ho in polarizzazione orizzontale, quindi direttiva. La verità sei... ma... sei tranquillo. Poi altro non ti posso dire. Anche qua Carlo arrivi bene, non è un segnale forte, però la radio è buona, è pulita. E che zona sei, lo puoi dire Carlo? Allora, io sto modulando con una nuova radio Albrecht AE 5890 EU omologata e ha la MFM SSD, quindi bande laterali, e ho messo l'antenna in polarizzazione orizzontale per qualche dx quando c'è molta propagazione, però anche in locale volevo sapere come sto uscendo, eventualmente posso tirare su un pochettino il pass. Sì, qua il segnale è 3-4 e la radio è 4, è buono, dai. Se puoi dire la zona, se puoi dirla, Certo, non problema. Io sono in zona Luna e Sole, praticamente zona Bulling, quell'altezza lì, quindi abbastanza anche alto a Sassari. Ecco, adesso ho aumentato un po' di segnale, quindi invece sei più in alto rispetto a me. Io sono qui in Monte Rosello, proprio basso, quindi sei tu, magari fatti sopra. Io ho aumentato un pochettino i watt perché ho anche la regolazione da 1 a 4 watt e poi non so se collego qualche linearetto magari riesco a portarla ancora più su. Sì, adesso sei a 5-6 in modulazione, però ripeto, l'ascolto benissimo, nessun problema. Benissimo, mi interessava sapere queste notizie perché ho controllato le onde stazionarie, ce le ho 1 e 2, 1 e 3 a seconda di come muovo i canali, più o meno a 20, al canale 20 diciamo è a 1 e 3, quindi dovrebbe andare bene. Sì, va bene, tollerabilmente. Volevo dire, avevi un nominativo diciamo qualche anno fa, e se quanti anni fa modulavi? Ora, in passato io modulavo ma da Bonorva e mi chiamavo Europa, stazione Europa, operatore Carlo. E arrivavi a Sassari, qualcuno lo ascoltavi da Bonorva, forse Sparviero? Sì, qualcuno sì, ma diciamo non era molto costante il segnale, molte volte no, dipende dalle, insomma, anche un pochettino dalla propagazione, dalle posizioni degli altri. Qualcosina sentivo in passato, poi avevo mollato tutto e quindi adesso ho rifatto l'impianto e sembrerebbe che stia andando bene, grazie comunque dei controlli. No, va benissimo, dai. Ben ritornato allora Carlo, sono in compagnia di Antonello, Alessio, dipende da come si alza. Poi c'è Fabrizio che in QRX in ascolto. Siamo qua, dai. Avanti ancora per te Carlo. Comunque 9:20 qua zona centro Sassari. Ok, quindi sta voi mi arrivate tutti al massimo, radio 5, segnale 9:10, quindi molto bene, diciamo modulazione chiara, radio ottima. Secondo me, vabbè, mi sta venendo un dubbio, ma comunque sia, un'altra cosa da me, a un certo punto, cioè la luna è sole, quello che è. vabbè, niente, là, non c'è problema. E dipende anche da dove è puntata adesso la direttiva. C'hai anche il motore, il rotore? No, purtroppo in passato l'ho avuto, mi si era rotto e quindi l'ho puntata nord-sud. E quindi qui proprio non ci passi, non siamo nella tua traiettoria. Comunque io vi sento abbastanza bene. Qualche giorno fa ho provato a accendere, non c'era nessuno che modulava, quindi sono andato in SSB, USB, e sono riuscito a fare qualche collegamento e ovviamente anche gli altri operatori avevano la direttiva, mi sentivano abbastanza bene, però poi i giorni appresso propagazione poca, quindi l'ho ripresa oggi in mano la radio, giusto per fare qualche controllo e essere sicuro che sia tutto a posto. E ormai la propagazione sta andando in declino, quindi il prossimo anno adesso. Comunque no, vai bene. Cosa devo dire? Una cosa adesso mi sta sfuggendo. Vabbè dai, riprendi Antonè. Sì. Vabbè, non c'è problema da quello. Ok. Tranquillo. Ho fatto una cagata. Sì, cos'è fatto? Ho fatto adesso veloce. Anche il secondo, vieni subito. K. Carlo, ci sei? Sì. Sempre qua in ascolto. Comunque io sto usando un vecchio apparecchio, degli anni 70-80, un Samurai. Come antenna è un'antenna autocostruita, tipo canale a pesca, non so se tu la conosca. Più o meno le conosco tutte le antenne, ho capito, quella va abbastanza bene, quel tipo di antenna lì, da quello che mi risulta. E questa è autocostruita, dai, fatta con del cavo coassiale di varie misure e del cavo elettrico. La limitazione della green matter, dai. Sì, ho capito. È un bel lavoro fare l'antenna autocostruita. Oggigiorno si fa prima ad ordinare, magari su internet, e quindi sono pochi ormai quelle che riescono a... Diciamo, in passato avevo un po' di manuali e appunti conservati, anch'io ne avevo creato, però sempre di polo omnidirezionali, però riuscivo a uscire bene quando ero in un altro posto, insomma. Ma no, questa è semplicissima da fare. Io ho preso, grazie a un altro collega, un progetto da internet, più o meno a grandi misure va abbastanza bene, poi vabbè la devi un po' tarare, ma a me mi è andata bene alla prima, quindi come ci sia, buona alla prima. Brecco, quando è così è perfetto, buona alla prima. Sì, avanti Brecco. Sì, buonasera, ciao Franco, poi c'è un'altra persona che non conosco, comunque Roberto da questa parte. Sì, c'è Carlo, avanti Carlo. Buonasera Roberto, ti sento bene, radio ottima, 5, 6 addirittura, segnale al massimo. Ma tu sei vicino a me, sta arrivando oltre 9.30, in che zona sei tu? Zona Luna e Sole, altezza del Bulin. Per quello sta arrivando, quasi 9.40, sì, a bomboletta arrivi. Comunque mi hai sentito per la prima Roberto da questa parte, c'è qualche durato, non ho fatto ascolto. Sì, c'è Alessio che si è allontanato, Antonello Pomponio, e c'è Fabrizio in QRX che sta facendo qualche lavoretto. Avanti ancora, sta uscendo in direttiva, in orizzontale comunque Carlo Roberto. Beh, anche io sto un po' con la orizzontale, la direttiva, la 4.20, è una raffredda un pochettino, è pronta a metterla sul tetto. Com'è se in orizzontale, Carlo? Diciamo che ho sempre avuto le altre polarizzazioni, quelle verticali, e questa volta avevo un'antennina conservata e c'era la possibilità orizzontale, ho voluto provare giusto per vedere come fa, magari coi Dix lontani riesco ad arrivare un po' meglio, poi nel caso cambierò la polarizzazione. Ma cos'è? Quanti elementi è l'antenna? Allora, l'antenna è a un solo elemento. Ah, quindi è un dipolo normale, un semplice dipolo. Esatto, è un dipolo della Sirio. Ok, sta andando una grande, figurati, sta arrivando così forte, 9.35 e sei in orizzontale, figurati se dovessi mettere una verticale o una ciclottavi, guai, mi sfassi lo smite. Comunque mi sembra aver sentito Antonello, avanti Antonello. Sì, mi viene un dubbio più che altro, la verità. Anzi, mi sorge un dubbio. Quindi, cioè, fatti i calcoli, cosa vuoi dire? Mi sorge un dubbio. Io sono liscio, la verità. Lui è attaccato a te, ha letto, giù, come sole. Quindi, a un certo punto, il dubbio è quello che so già a me. In pratica, capito? Non per altro. Va bene, non c'è problema. Tutto a posto. Anzi, sono contento. Che niente, qualcuno della sua famiglia, più che altro, la verità. Qua passi tu, Antone. Ho detto che qua passi tu. Hai quella cosa preparando, non ho visto seguire. No, qua passo io, però devi capire, là. Ti ricordi quello che ho smontato? Ti ricordi, sì. E quindi a un certo punto mi viene il dubbio, capito? È rimasta poca roba di quello che è rimasto, però è stata sopra. Secondo me è quello che penso io. Vabbè, comunque sia, non voglio fare nulla e quindi non assolutamente non voglio avere problemi con nessuno. Ciao Claudio, mi hai sentito, ben ascoltato, ma secondo me non mi sbaglio. No, Antonio, io ti ho risposto perché qua completamente annientato, cioè lui è Santiago neanche 9, e tu sei 9 più 30, quindi non ci sono problemi, se ti faccio del dubbio, solo per questo ti sono intervenuto. Buonasera a tutti, Claudio Sparviero da Sassari, ciao Carlo, ciao Roberto, ciao Antonello e ciao anche a Franco. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Claudio, buonasera, un abbraccio a te e tutto il QRA familiare. Avanti Roberto. Sì Claudio, ben sentito, non ho seguito il discorso, cioè di nuovo portanti ci sono. Facciamo salutare a Carlo un attimino, a Claudio, e poi mi racconterete. Avanti Carlo per Claudio. Buonasera, ben sentito. Niente, io tra qualche attimo, causa partita, devo mollare e magari ci risentiamo più tardi o nei prossimi giorni. Io lavoro quei turni, quindi a volte di sera lavoro, a volte sono di notte, a volte di giorno, quindi ogni tanto busserò su questo canale. Grazie comunque a tutti, ci sentiremo presto, grazie mille a tutti. Ehi, prima di chiudere Carlo, che apparato stai utilizzando? Albrecht AE5890. Bella radio, complimenti, stai andando alla grande, ottimo segnale e ottimo, come si chiama, modulazione, come dice Claudio, ottimo con la truppa. Avanti di nuovo a Claudio che farà girare. Claudio si è allontanato, Franco a te il mic. Sì sì, ciao Carlo, mi hai sentito allora. Siamo qua, dai, quando voi fate due chiacchiere su questo canale in genere, il nostro canale monitor. Avanti, Ali. Tonello, avanti a te. Ma come risposto? A te che vado. Che c'ho, vado a mangiare le fornette, già dentro tra poco, 2 minuti. È stato veloce, mi hai proprio... Io non comprendo nulla quello che sta dicendo. Neanche io comunque. Ma cosa è successo, Fra? Raccontami. No, niente. Qui ci sta giù presunto ancora. Lo dice Santiago 9, a te ti passa, di chi stanno parlando? Non lo so, forse c'è qualche dubbio, però no, non ha chiarito, dai. Anch'io ho capito la stessa cosa, ma secondo me sta fraintendendo perché sono segnali proprio completamente diversi da quelli della portante. Solo l'altro giorno a me mi arrivava 9.30, superava da fastidio a coso, a Antonio, figurati, non so quanto ti arrivava a te Fra. La portante è anche qui 9.30.